voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Seconda puntata. Una domenica di giugno, un cane di nome Bobby, che aveva e non aveva un padrone, cominciò una corsa errabonda ma piena di pause per le strade di una città italiana. Erano le prime ore del pomeriggio. Le persone in giro erano poche, forse dormivano, o erano al cinema o in gita sui colli. Le campane di una chiesa romanica suonavano allegre, ma meno allegre del mattino, e il suono si infilava nei lunghi portici pieni di ombra di un'antica via deserta che il cane percorreva a saltelli. Aveva aspettato fino a quell'ora in un cortile, dentro un casotto fatto con scatoloni di pasta Barilla, il ritorno di quello che lui pensava fosse il suo padrone, l'uomo che gli aveva fatto il casotto, senza però compromettersi più di così nei suoi confronti. Ma questi, che non arrivava quasi mai, non arrivò neppure quel giorno. E Bobby, a malincuore però, si sentì moralmente libero di andare in giro. Si muoveva spinto da una sola necessità, la fame, ma da molti sentimenti. Primo fra tutti, un grandissimo eccitamento di mettere insieme, nelle combinazioni più diverse, la maggiore quantità possibile di odori. Poi, dalla noia che nei cani è diversa, ma non molto diversa che negli uomini. Poi, dal bisogno di compagnia. Poi dall'amor proprio, ferito dall'atteggiamento del padrone che egli amava senza aver avuto mai la sicurezza di essere contraccambiato. Infine dall'allegria che nasceva dai suoi tre quarti abbondanti di sangue blu. Bobby era un bastardo, ma aveva nelle vene una fortissima dose di terrier a pelo liscio e solo una minuscola dose di impurità varie, con prevalenza di cani dalle zampe corte. In lui il cocktail aveva dato buon esito e il complesso di superiorità del cane di razza aveva avuto quasi la meglio sul complesso di inferiorità del bastardo, per cui Bobby camminava su zampe corte ma con la testa alta, spesso trottando con disinvoltura e solo di rado galoppava come chi teme le infinite conseguenze della nascita incerta. Del terrier a pelo liscio Bobby aveva ereditato uno dei tratti più importanti: il tremito da eccitamento e la capacità di levitazione immediata, verticale, dal basso verso l'alto, per sola spinta nervosa. Grazie a questo, un uomo di carattere instabile, ma dotato di improvvise simpatie e antipatie, lo aveva trovato, un giorno, simpaticissimo. Gli aveva costruito un casotto di cartone, qualche volta lo portava a spasso, però senza l'impegno del guinzaglio che Bobby avrebbe desiderato, e molto vagamente lo proteggeva. Tuttavia Bobby, per le ragioni che si sono dette, ma forse molto più semplicemente per carattere, non era un cane felice. Era però fortissimo, molto intelligente, insomma capiva la vita, e per queste due cose messe insieme, fondamentalmente buono. Non era snob come tutti i cani di razza, ma neppure lacrimoso, rabbioso, troppo ansiosamente felice come tutti i cani bastardi. Era un indipendente. La fame non era mai stata per lui un problema. Aveva sempre trovato benefattori spontanei. In mancanza di benefattori c'erano i bidoni delle immondizie, dentro i quali Bobby, col suo muso lungo di cercatore di volpi, pare che i terrier abbiano cominciato la loro carriera mondana in questo modo, molte migliaia di anni fa, scovava il meglio in un attimo, raspando tutto per aria. Quel giorno vide due gatti, bianco e rossiccio uno, rossiccio l'altro, precipitarsi sotto una finestra. Capì tutto, ma non si scompose, anzi, da un galoppo poco serio passò a un trotto serio e minaccioso. Da una finestra cadde un fagotto bagnato che si squarciò al suolo pieno di spaghetti, e in quel momento i due gatti, mezzo pelati, videro un cane che, urlando come se lo sgozzassero, eredità terrier, volò ventre a terra sul cartoccio. I due gatti scomparvero covando malumore. Bobby mangiò tutto lentamente, senza badare alle proteste della vecchia al davanzale che gli buttò addosso due catini di acqua. Finito il cartoccio, riprese il trotto, fece un angolo, poi un altro, e lì trovò il primo fastidio. Un vero terrier a pelo liscio che conosceva di vista stava a una ventina di metri da lui, tenuto al guinzaglio da un padrone affettuosissimo, un pazzo con grossi occhiali che, come altre volte, gridò indicando Bobby: «Biri, guarda il tuo nemico!» Cominciò l'inferno delle urla. Il padrone di Biri rideva moltissimo, ma durò poco perché Bobby urlò per formalità e fuggì. Dopo due o tre angoli tornò tranquillo. Conosceva un posto, un deposito di legnami all'aperto e una chiesa sconsacrata dove si riunivano cani, ma non c'era nessuno. Annusò a lungo e non trovò tracce fresche. Allora si diresse verso il parco pubblico, luogo pericoloso per i cani come lui, ma di compagnia sicura. Di solito c'erano conoscenti, una specie di moro, cane pirata, un po' anziano, una traballante cicciona semiceca, irriconoscibile mistura di disgraziati, vecchissima, che il municipio lasciava stare, entrambi avidissimi di odori, ma in modo indiscriminato e un po' schifoso, come tutti i vecchi. C'era una cagnetta, molto facile, un po' matta, che scompariva per mesi. C'erano due mezzi schnauzer, molto intelligenti e simpatici, che vivevano chissà come, forse protetti da qualcuno. Ma quella domenica nemmeno un cane, solo una banda di militari che suonava. E eccitò Bobby, tanto che rimase fino alla fine odorando qua e là tra i pochi spettatori che non trovarono nulla da ridire. Dal parco pubblico passò alle vie principali della città, dove erano esposte molte bandiere. Altre fanfare suonavano e uomini in divisa camminavano in mezzo alla strada. In un androne che sboccava in un cortile, molto inaspettatamente, Bobby trovò quattro cani che rimasero essi stessi sorpresi. Dopo un momento fecero amicizia, anzi, fecero molto di più di amicizia. Da cani errabondi, quali erano fino a quel momento e completamente sconosciuti uno all'altro, chissà per quale caso nei destini di tutti gli esseri viventi, i cinque non furono più una meschina cosa canina. Tre su cinque erano bruttissimi, uno con tre zampe, gli altri sbrindellati da zuffe e da morsi che si perdevano nei meandri dei pedigree, bensì un'unione sociale, piccolissima, una forza storica minuscola, si capisce, quasi un abbozzo di organizzazione politica. L'elite non è sempre stata di pochi, forse con un programma. O così almeno pareva. C'erano le bandiere, le fanfare, uomini in divisa marciavano e forse inneggiavano, ma soprattutto i cinque animali avevano assunto, portandosi in mezzo alla strada, compatti e trottanti, le orecchie rosicchiate dai topi al vento, quell'aspetto con molta fede e speranza che non è dei cani, ma di esseri ben superiori. Furono due ore molto piene, ore di enorme interesse, ed essi parteciparono, mai cacciati, a riunioni grandi e piccole che avvennero nella giornata. Due volte furono disturbati da cani di razza, una volta da un lupo nero che tirò la sua padrona verso di loro, ma non per litigare, solo per essere annusato e per annusare. Un'altra volta da due gemelli maschi ferocissimi, due Doberman, due SS, che saltarono da una jeep per attaccare, ma fortunatamente avevano la museruola. Fu una visione che li spaventò molto e sconvolse definitivamente la formazione unitaria dei cinque, che fuggirono quanto più lontano possibile. Si ritrovarono, senza sapere come, lontanissimi dal centro, quasi all'imbocco dell'autostrada, senza nessuna delle speranze di poco prima. Tornati cani e basta. Quello a tre zampe tentò di ravvivare la domenica, il sole però stava calando, con due bussolotti, poi con l'inseguimento di un camion rimorchio, ma nessuno lo seguì, salvo Bobby, che si fermò dopo 100 metri, ubriaco di fumo di nafta. Deviò a destra del camion rimorchio barcollando e in quel momento fu investito da una motocicletta che frenò, sbandò e riprese la corsa. Il colpo gli fece molto male, ma Bobby arrivò piano piano fino al casotto e lì, senza più aspettare il padrone che non arrivava mai, morì. Per puro caso, il giorno dopo, passò di lì il padrone, insomma quello che Bobby era convinto fosse il padrone, e ricordando con grande dolore passeggero Bobby e certe sue distrazioni, si domandò, o si disse, una cosa molto bella e degna di lui. I cani hanno l'anima. Bambino. Un mattino presto d'inverno, un uomo senza figli vide tra la brina e la boscaglia sulle rive del Piave un bambino dagli occhi celesti e mongoli in compagnia di un vecchio con un falcetto. Aveva la testa grossa, coperta da un berretto di lana con pompon, zoccoli alti e una lunga sciarpa a strisce di colori diversi. Non pareva un bambino moderno, ed egli, per uno di quegli scherzi di tempo e di luogo che la vita gioca agli uomini per illuderli, in quel bambino vide se stesso 40 anni prima. Attratto dalla luna ancora alta tra la brina e dal bambino, l'uomo si fermò a parlare. Il dialogo si svolse in una luce quasi azzurra, con degli scricchiolii, e il vecchio, che si era subito accorto della somiglianza tra i due, incitava continuamente il bambino a rispondere il suo nome e la sua età. Ma il bambino rifiutò di aprire bocca e solo alla fine, quando parve non ci fosse più nulla da fare per convincerlo, quasi per scusarsi e in modo ispirato e sereno come certi esseri molto antichi, improvvisamente sorrise. Venne l'estate e l'uomo rivide il bambino negli stessi luoghi, in una radura di erba appena falciata in mezzo alla boscaglia. Il bambino lo vide, sorrise come allora, ma si nascose subito dietro i mucchi di fieno e, camminando a quattro zampe tra il fieno e l'erba non ancora falciata, scappò via. L'uomo guardò a lungo in quella direzione e ogni tanto vedeva la schiena color miele e la canottiera bianca, ma quando si avvicinò il bambino scomparve nel folto del bosco. Sempre più attratto, l'uomo si informò. Seppe che il bambino era figlio illegittimo di una contadina. Piano piano fece amicizia col vecchio e poi con l'intera famiglia, molto diffidente, piena di situazioni intricate e irregolari. In queste visite vide il bambino solo di sfuggita, perché scompariva, ma seppe molte cose di lui. Per esempio, che temeva di essere rapito e di notte parlava nel sonno, rivolgendosi a persone dai nomi sconosciuti. Un giorno lo mandò a chiamare per affidargli un lavoretto e gli promise un piccolo stipendio. Si trattava di raschiare con la carta vetrata delle sedie appena tagliate e poi di lucidarle con l'olio. Il bambino lavorò mezz'oretta con molta foga, poi piano, sempre più piano e svogliatamente, finché smise. Alle domande dell'uomo non rispose e appena questi entrò in casa sparì. Da quel giorno cominciò ad aggirarsi intorno alla casa. Pronunciò qualche parola, anzi qualche monosillabo, ma questo bastò perché l'uomo riconoscesse nella voce del bambino il timbro della sua. La stessa notte in cui udì la voce del bambino ci fu un temporale molto forte che egli non udì dal profondo del sonno. Sognava il bambino in bermuda scozzesi e canottiera bianca che camminava sull'acqua. Poiché il bambino non si decideva a dire qualcosa di più del sì e del no, l'uomo si serviva del nonno e della madre come mediatori e interpreti per conversazioni un poco più lunghe. Attraverso di loro non soltanto gli mandava a dire le cose, ma gli faceva racconti dei suoi viaggi. Visto che il bambino era interessato ai viaggi, non conosceva che i luoghi dove era nato e dove viveva, gli venne in mente di portarlo in gita a Venezia e attraverso gli ambasciatori gli comunicò la sua intenzione. Il bambino fece rispondere all'uomo che sarebbe andato, ma con il costume per fare il bagno nel mare, nonostante il divieto della madre. Altrimenti, niente. Partirono un sabato mattina. Alla sera il bambino aveva qualche linea di febbre e al mattino si svegliò alle 5. E arrivarono con l'auto fino all'aeroporto di Venezia, dove li aspettava un motoscafo. Il bambino guardò i grossi jet arrivare e partire da quell'estremo lembo di terra, ma non disse una parola. Nel motoscafo si aggrappò ai bordi e guardò con il collo teso le due grandi ali d'acqua che si aprivano ai lati dello scafo in corsa, finché ebbe tremiti sempre più forti e si rivolse all'uomo con il suo sorriso onnisciente in silenzio. L'uomo gli chiese se aveva freddo ed egli rispose «un poco». Era la prima parola. L'uomo lo coprì con la sua giacca, lo tenne stretto a sé e il bambino di tanto in tanto lo guardava con gli angoli delle tenere labbra rivolti all'insù. Scesero al lido e si incamminarono nel viale alberato in direzione della spiaggia. Da un fornaio comprarono pane fresco e due fette di torta sfoglia con mele. Poi passarono dal salumiere per riempire i panini di prosciutto. Qui il bambino tirò l'uomo per la giacca e disse: «Le patatine fritte». L'uomo ne comprò due sacchetti. Misero tutto in una piccola sporta di plastica e si avviarono alla spiaggia, dove l'uomo affittò una cabina in prima fila con un lettino e una sedia a sdraio. Si spogliarono, andarono a fare una passeggiata sulla diga tra i bagnanti nella sabbia. L'uomo osservò che il bambino aveva spalle e schiena magre, con il segno della canottiera, gambe rotonde e uniformi come due paletti e grossi piedi con dita grosse. Si muoveva in modo un po' ondulante, come gli animali giovani che si orientano col fiuto, e tuttavia, come toccato da una grazia lontana, annunciava ogni movimento imprevisto, come buttarsi di colpo nella sabbia sulle ginocchia, con quel suo sorriso lento, lungo e diretto verso l'orizzonte. Giunti sulla diga, su cui sventolavano grandi bandiere azzurre, l'uomo raccomandò al bambino di tenersi ben stretto alla fune mentre lui nuotava, e si gettò dal trampolino con un po' di vanità, pensando, chissà perché, che questo avrebbe fatto piacere al bambino. Dall'alto il bambino lo guardava e lo seguì finché giunse a riva. Qui l'uomo, vergognandosi di quel tuffo, propose al bambino di fare anche lui il bagno, ma il bambino disse di no. Poi, un poco alla volta, entrò nell'acqua, ma non andò oltre il polpaccio. L'uomo lo incitava ad immergersi tutto, di colpo, indicando gli altri bambini molto più piccoli di lui che lo facevano, ma al piccolo sembrava mancare il fiato e le spalle gli si facevano più magre in quei momenti. Allora ripresero a camminare sulla spiaggia chiacchierando. L'uomo gli spiegò l'uso del salvagente e si fermarono a una barca di bagnini che vendevano conchiglie piccole e grandi di diversi prezzi. L'uomo ne appoggiò alcune all'orecchio del bambino e gli fece sentire il rumore del mare, più forte quanto più grande era la conchiglia. Poi gli chiese se ne voleva una. Il bambino ci pensò un po', poi rispose di sì e indicò la conchiglia più grande. Come ripetendo parole non sue, l'uomo spiegò che quella costava troppo cara e ripresero a passeggiare sulla spiaggia. Il bambino disse improvvisamente: «Si potrebbe avere un salvagente?» «Ti piacerebbe un salvagente?» domandò l'uomo. E poiché il bambino rispose sì, disse che lo avrebbe comprato, ma intanto lo chiese in prestito a una signora vicina di capanna, molto gentile e con molti bambini piccolissimi in accappatoi azzurri con le iniziali. Tornarono in acqua con il salvagente e l'uomo portò il bambino fino a un punto in cui non avrebbe potuto toccare. Il bambino tremava di paura e di freddo, diceva battendo i denti: ho paura, ho freddo», ma rideva. L'uomo non l'aveva mai visto ridere. Si teneva aggrappato alle mani dell'uomo, che gli insegnava a tenere le gambe allungate sull'acqua e a battere i piedi, e questi sentiva le sue piccole mani tutte tese, strettissime e tremanti nelle sue. Torniamo indietro», disse il bambino battendo i denti, ma quando tornarono verso riva si fermò a galleggiare e a far fischiare il salvagente a forma di oca. Era l'una. Tirarono fuori i panini dai sacchetti e mangiarono. L'uomo osservò che il bambino accostava la testa e la bocca al pane più che il pane alla bocca e si guardava intorno come per nascondere il cibo e l'atto del mangiare. Quando mangiò il primo boccone di torta di mele, disse seriamente: «Buonissima». Poi domandò: «E il gelato?» «Il gelato quando saremo a Venezia, più tardi. Ora hai appena mangiato e può farti male», disse l'uomo, ripetendo esattamente parole che gli erano state dette in quello stesso luogo molti anni prima. Passò un po' di tempo e due o tre volte il bambino domandò: «E il gelato?» E l'uomo rispose ancora la stessa frase. Poi si addormentò. A brevi intervalli si svegliava preoccupato che non fosse andato in acqua o in luoghi pericolosi, ma lo vedeva lì intorno che si aggirava a qualche metro dal lettino e tornava a dormire. Si svegliò alle 4. Si rivestirono, ringraziarono la signora per il salvagente, percorsero il viale Il bambino guardava i tabelloni con le immagini dipinte dei vari gelati e cassate e appena in tempo si imbarcarono nel vapore per Venezia. Nella terrazza superiore, all'ombra, il bambino disse «Qui sì che si sta freschi». Poi vide un transatlantico greco e disse «Maria Vergine, non finisce mai». Appena sbarcati a Venezia, l'uomo mostrò al bambino il Ponte dei Sospiri. Gli indicò le grosse sbarre dei piombi e gli raccontò della fuga di Giacomo Casanova da quelle carceri. Lo alzò sul parapetto di un altro ponte perché vedesse le gondole e gli spiegò che in quella città non c'erano né auto, né moto, né biciclette. Bisognava andare o in barca o a piedi. Il bambino ascoltava e stringeva nelle mani il fagottino umido dei costumi da bagno. Entrarono nella chiesa di San Marco e l'uomo spiegò «Vedi il pavimento fatto a onde? È così perché sotto ci sono le onde del mare». Salirono sul campanile. L'uomo indicò il bacino di San Marco al sole. Proprio in quel momento entrava tra i bagliori una petroliera giapponese, bianchissima, la bandiera col disco rosso in campo bianco al vento. Poi l'uomo mostrò al bambino i mori che battevano le ore col martello sulla grande campana. Scesi dal campanile, il bambino domandò «Si potrebbe avere una macchina fotografica?» E l'uomo spiegò che costava troppo. Ma il bambino si precipitò verso un banchettino di souvenir indicando la macchina fotografica, un oggettino di plastica da 200 lire che scattava all'interno minuscole vedute di Venezia a colori. L'uomo si vergognò e la comprò. Poi sedettero al caffè Florian e ordinarono il gelato, una coppa d'argento con una palla di crema, una di cioccolato e due di pistacchio. Il bambino disse due volte, una per la piazza e l'altra per il gelato, «Bellissima» e «Buonissimo». E poi, finito il gelato, domandò «Si potrebbe avere il Gran Turco per i colombi?» E l'uomo, che ancora si vergognava senza sua colpa per la macchina fotografica di poco prima, gli chiese se gli sarebbe piaciuta la fotografia. Posarono insieme con i colombi svolazzanti nelle mani. L'uomo un po' accigliato per il sole negli occhi, come allora. Il bambino con la piccola bocca, gli occhi celesti a mandorla, ridenti, come chi, senza saperlo, conosce degli uomini il destino. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.